La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori da 24, sono le 16:07 primi e 48 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast, appunto, della versione di Oscar, Oscar Giannino, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Se volete telefonare per darci vostre idee su questo tema, 800 24 0024, sia per dirci che è un problema e potete immaginare di essere d'accordo con la proposta che oggi vi illustriamo, che non è mia ovviamente, oppure se dite no, questo è un falso problema, i problemi dell'Italia sono altri. Di che cosa parliamo oggi? Del debito pubblico del nostro paese. Sapete che siamo a 132% e rotti del PIL di debito pubblico. La promessa dell'inversione della sua crescita in questi anni non è mai stata mantenuta, perché fino a 2 anni rotti fa ovviamente la recessione non ci ha aiutato, e perché nel frattempo abbiamo chiesto e ottenuto più di 2 punti di PIL, in realtà di maggior deficit, quella che si chiama la flessibilità, da parte dell'Europa. La crescita nominale, oltre a quella reale, che solo quest'anno si attesta intorno all'1,5%, vedremo se poco più, speriamo poco più che poco meno, quella reale, ma quella nominale resta largamente al di sotto del 2%, che è l'obiettivo della BCE, quindi anch'essa non ha aiutato. Per tutte queste ragioni vedremo se dall'anno prossimo si stabilizza il debito, al di là di discesa, perché dovrebbe venire solo dopo, oppure se con la legge di bilancio attuale, come temo io, a dire la verità, non avverrà neanche l'anno prossimo. Su questo, ovviamente, prima questione: se per voi il debito è un problema oppure no. So che a molti di voi, molto più di un tempo, sono convinti che il debito pubblico non sia un problema in un paese. Molti diranno lo sarebbe ancor meno se fossimo capaci di stampare moneta, se ci rimpadronissimo della sovranità monetaria. Quello che volete, ditemelo. Ma il punto è, seconda osservazione, che forse, questa è la mia personale convinzione, è anche vero che in questi anni noi non abbiamo fatto quasi niente per il debito, mentre io invece credo che lo scudo garantitoci da Mario Draghi avrebbe rappresentato, come ha rappresentato, una straordinaria finestra temporale per un intervento straordinario sul debito pubblico. L'intervento straordinario, come lo concepisco io e tanti altri più autorevoli di me, non è il consolidamento, cioè la ristrutturazione, il default parziale, ma è l'avvio di operazioni straordinarie, perché in unità temporali ristrette e al riparo dal rischio sovrano, come siamo stati in questi anni grazie alle politiche della BCE, questa era la possibilità, secondo me, di fare un intervento straordinario sul debito pubblico. Le strade erano molte, a cominciare dai beni patrimoniali immobiliari pubblici. Non lo abbiamo fatto. Nel frattempo, sulla spesa, vi do solo 2 dati riepilogativi, lo abbiamo già visto col professor Mario Baldassarri la settimana scorsa, noi sulla spesa non abbiamo lì esercitato, e sul deficit, un'azione di contenimento. C'era la crisi, i governi sono stati convinti che occorreva premere sul piede della spesa, e vi ricordo che la spesa pubblica a fine di questo 2017, in linea con i documenti del governo, vedremo se poi sarà superiore o inferiore, ma comunque è di 25 miliardi di euro superiore a quella del 2013, la spesa pubblica complessiva. Nel 2020, se stiamo alla legge di bilancio così come è entrata in Parlamento, la spesa pubblica sarebbe superiore di 51 miliardi rispetto al 2012, e in questi anni recenti, in questa legislatura, l'unico anno in cui la spesa non è diminuita, ma almeno è rimasta invariata sull'anno precedente, è stato il 2013. Allora, la crescita della spesa complessiva è avvenuta integralmente per una spesa corrente in crescita ancor più degli aumenti che vi ho detto, cioè 25 miliardi di euro al 2017 in più sul 2013 e 51 al 2020, se teniamo conto della programmazione dell'attuale legge di bilancio. La spesa corrente è cresciuta rilevantemente di più, e questa è stata la componente rilevante del deficit in questi anni, che pure scendeva, ma scendeva ogni volta con un obiettivo contrattato con l'Unione Europea più alto del previsto e del promesso, grazie appunto a quei 2 punti che ci sono stati concessi, grazie alle trattative ferme ma a voce bassa che Padoan ha sempre fatto, e in cui è sempre risultato vincitore nel governo Renzi come con il governo Gentiloni in Unione Europea. E in questi anni la spesa corrente è cresciuta molto di più di quei 25 miliardi in più, se non che nel frattempo le due componenti della spesa pubblica che sono invece scese sono quelle, grazie a Mario Draghi, la spesa per interesse sul debito, perché quella da 84 miliardi di euro nel 2012 è scesa a 64 miliardi in questo 2017, quindi 18 miliardi di euro di minor spesa, e quella in conto capitale, cioè gli investimenti li abbiamo tagliati, erano 64 miliardi nel 2012 e hanno iniziato e si sono fermati a 58 miliardi nel 2016. Quindi, seconda osservazione, non abbiamo approfittato di questi anni. Terza osservazione, ho finito. L'avvio di questa campagna elettorale sembra darci il segnale che il debito pubblico non sia un problema all'attenzione di nessuno dei tre poli politici, i cui leader hanno cominciato la campagna elettorale, ne vedremo lo sviluppo, in realtà con toni diversi ma con proposte che tutte quante contrastano con le regole europee vigenti del rientro del deficit del debito pubblico. Vi ricordo che il leader del PD chiede di tornare a Maastricht, cioè 5 anni di deficit al 2,9%, più deficit per 5 anni, cioè 50 miliardi di euro di spese in deficit ogni anno, questa è la sua proposta, come se non ci fosse il six pack e il two pack, cioè il fiscal compact. Salvini, lo sapete, lo avete spesso sentito a questi microfoni, chiede di ricontrattare tutti i trattati europei, compreso Maastricht, e se non è possibile una contrattazione su un'uscita programmata non traumatica dall'euro. Berlusconi non cita trattati da riscrivere, ma propone una moneta fiscale parallela che la BCE ha già dichiarato formalmente essere incompatibile con l'euro. Vi ricordo che nel programma dei 5 Stelle c'era il referendum sull'euro. Ecco, insomma, il debito pubblico è un non problema. Allora, di fronte a questo, nella puntata di oggi, approfittiamo per esaminare una proposta che è stata elaborata proprio ieri, è uscito ieri il paper l'altro ieri, il 27 novembre, lo trovate sul sito della LUIS, e a scriverlo è una persona di solidissima preparazione economica, che è giornalista, editorialista del Sole 24 Ore e docente alla LUIS School of European Political Economy, che negli anni ha avuto una formazione particolare, perché è senior fellow anche alla Brookings Institutions, il più importante think tank del mondo con base a Washington, è stato economista nel 2009 al Peterson Institute for International Economics di Washington, è stato vice direttore della stampa tra l'89 e il 98, ha scritto dalla Germania, mettendo a segno molti colpi direttamente con fonti direttamente della Bundesbank, per il Sole 24 Ore. Nel 2012 il suo ultimo libro, proprio per la Brookings Institution, è il libro Saving Europe, How National Governments Nearly Destroyed the Euro, cioè come i governi nazionali hanno quasi distrutto l'euro. Ecco, si chiama Carlo Bastasin, lo ringrazio di essere qui, buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio a te, Oscar. La proposta di Carlo Bastasin, che lascio a lui illustrare, su cui poi abbiamo chiamato due ospiti che la pensano diversamente, uno sarà Natale D'Amico, sottosegretario al Ministero del Tesoro e delle Finanze, e poi ci sarà il professor Luigi Marattin, che insegna all'Università di Bologna ed è consigliere economico della Presidenza del Consiglio, per sapere cosa ne pensano. Dico solo che questa proposta che sentirete ha due caratteristiche. La prima è di rivolgersi agli attori della campagna elettorale con uno schema di cooperazione che metta il problema del debito pubblico e quindi della sua abbattimento come priorità nazionale, e sentiremo come. La seconda, che è trascurata da quasi tutti ma per me è importantissima, è di collegare questa proposta a ciò che avviene in Europa, perché intanto in Europa nel frattempo la trasformazione dell'ESM, cioè lo strumento europeo salva stati, in una specie di fondo monetario europeo, beh, non ci aspetterà. E allora tanto vale tentare di avanzare una proposta che si collega a quella trasformazione e che ci porti, sulla base di una credibilità rafforzata italiana sulla volontà di ridurre il debito pubblico in maniera compatibile con l'effetto sull'economia eccetera eccetera, collegandoci però alle proposte di riforma europea. Mi sbaglio, Carlo? No, non ti sbagli infatti. Allora, adesso ti lascio il microfono per spiegare ai nostri ascoltatori, che non sono dei tecnici, però che cosa secondo te sarebbe giusto fare? Guarda, hai inquadrato molto bene il problema. Diciamo questo, noi non ci stiamo occupando del debito pubblico italiano, ma il debito pubblico italiano non è solo un problema italiano, è un problema anche europeo. È in sostanza il grande ingombro sulla strada di un accordo costruttivo di maggiore integrazione su cui stanno lavorando i nostri partner, Francia e Germania. E diciamo, se noi lasciamo elaborare le proposte solo a Francia e Germania, rischiamo di trovare delle proposte che non ci piaceranno. In particolare, se ne cito, ti cito le due che sono in questo momento sul tavolo negoziale. Uno è quello di un meccanismo automatico ex ante di ristrutturazione dei debiti troppo alti. Questo è un meccanismo che io giudico molto pericoloso. Al solo annuncio potrebbe ricreare la stessa paura che era stata suscitata a Deauville quando si era creato un annuncio appunto di perdita di valore del debito pubblico in mano a investitori privati. E l'altro meccanismo è quello di emettere dei titoli, diciamo, di inferiore qualità, si chiamano tecnicamente dei junior bonds, ogni volta che si fa un disavanzo pubblico un pochino più alto del previsto. Sembra una piccola cosa, sembra emettere dei piccoli titoli ristrutturabili, non particolarmente incisivi sullo stock del debito. In realtà è la classica coda che muove il cane, cioè basta che comincino a oscillare quelli, oscillano molto facilmente perché sono piccoli, sono appunto pochi titoli, e si pone il dubbio sul fatto che l'intero debito pubblico sia sostenuto. E a quel punto si riscatena una prezzatura diversa rispetto agli anni di San Mario Draghi del rischio sovrano per il nostro paese. Esattamente, si torna a uno scenario tipo 2011. Per questo mi sono permesso di fare tre proposte che sono collegate l'una all'altra. La prima è molto semplice, cioè di passare dall'attenzione verso le regole di contenimento dei disavanzi, dei deficit, alle regole di contenimento del debito. Perché? Perché i disavanzi hanno, diciamo, una correzione automatica ogni anno. Noi dobbiamo, per dire, correggere il disavanzo allo 0,5%, indipendentemente dal punto di partenza. Quindi, diciamo, dal punto di vista politico, ogni governo comincia ogni anno dallo stesso punto di partenza, deve correggere, deve convergere verso un obiettivo di medio termine, di una quantità prefissata. Questo significa che per l'opposizione che un giorno governerà, il fatto che il deficit di quest'anno sia a un livello o a un altro non cambierà nulla nell'impegno che dovrà porre a correggere il suo disavanzo quando governerà. Diverso è se si fa attenzione alla regola del debito, che è invece una scansione temporale, cioè dipende da quello che è stato fatto negli anni precedenti. In questo caso l'opposizione che un giorno governerà ha molto più interesse a controllare l'azione parlamentare del governo in carica. Per questo propongo prima di dire la proposta, non è l'Italia, non è Carlo Bastasin da solo, non è l'Italia perché abbiamo il debito che abbiamo e abbiamo ottenuto più flessibilità per il deficit. È stata la BCE nel 2016 a mettere per iscritto un giudizio formale, che giustamente secondo me Bastasin richiama nel suo paper, nel quale dice: partiamo da un presupposto per rimettere mano alla riforma delle regole e dei criteri europei sul deficit e debito. Il patto di stabilità e crescita, così come disegnato, non ha funzionato, cioè concentrato quello sui deficit, come diceva Carlo Bastasin. In realtà non è stato osservato, non sono scattate sanzioni e questa è la cosa da cui partire. No, lo volevo dire per non dare l'impressione che siamo solo noi poco virtuosi a dirlo. È la BCE che l'ha detto. E allora andiamo alla proposta. Ma è molto semplice, si tratterebbe di istituire una commissione interna al Parlamento per la riduzione del debito e di affidare il vertice e la maggioranza di questa commissione all'opposizione che c'è in Parlamento, proprio perché l'opposizione è in grado di avere interessi molto precisi per il contenimento del debito nell'anno in corso. Che cosa succede? Che quando si ragiona di questioni fiscali non diventa più una dialettica tra il governo italiano e Bruxelles che vuole limare il nostro disavanzo, vuole costringerci a fare delle correzioni. Diventa una dialettica interna al Parlamento, come dovrebbe essere, tra governo e opposizione, con l'obiettivo appunto di mantenere entro i limiti la regola del debito pubblico. Questa è la prima proposta. Poi? La seconda proposta è una proposta un pochino più articolata, spero di renderla molto semplicemente. In sostanza noi abbiamo due regole nel patto di stabilità, una che disciplina il disavanzo e l'altra che disciplina il debito. Sì. No? Deficit, queste due regole sono in contrasto. Quella del deficit in particolare è stata modificata negli anni, in particolare dal 2015, inserendo una serie di esenzioni, di flessibilità, come le chiamiamo. Il risultato è che il disavanzo può essere rispettare le regole, al tempo stesso può fare aumentare il debito, come è successo in Italia. Esatto. A questo punto entrambe le regole perdono credibilità. Se è necessario correggere il debito pubblico italiano, ed è indispensabile non solo per l'Italia, ma è indispensabile perché si proceda a una forma di mutualizzazione dei rischi all'interno dell'Europa, bisogna ridurre questo rischio maggiore. Moscovici l'ha detto proprio nei giorni scorsi: guardate che state creando, siete ancora la fonte di instabilità per l'intera euroarea. Allora bisogna, diciamo, avere uno sforzo comune in Europa, garantendo il massimo sforzo dell'Italia. E allora la proposta è sostanzialmente di ridurre tutti i margini di flessibilità che abbiamo preso, perlomeno lasciarli giudicare dalla Commissione europea o dall'ISM, questo fondo salva stati, e i margini che ancora mancano per rispettare anche la regola del debito vengono assorbiti attraverso un meccanismo che non è il caso di approfondire queste parole, dallo stesso fondo salva stati, o perlomeno congelati in attesa di una riduzione del debito, perché questa regola del debito, che è tanto demonizzata in Italia con la demonizzazione del fiscal compact, in realtà ha un funzionamento asimmetrico a seconda che il debito sia più alto del 100% o meno alto del 100%, quindi bisogna arrivare al 100%. Bisogna arrivare esattamente al 100%. Ricordo che attualmente la media oraria si è postata molto in questi anni, anche per gli altri, intorno al 90%, ma è sotto il 100% che cambia il regime. Io adesso dico più o meno, per farvi capire, significa un regime il cui impegno di realizzazione, di diminuzione del debito, per una parte, e questa è la parte cooperativa, per così dire, cooperativa ma con garanzie offerte dall'Italia in Europa, quindi non, per dire, vista la nota posizione tedesca che non verrà superata, cioè non stiamo chiedendo ai tedeschi di sobbarcarci a una quota ogni anno di riduzione del debito cofinanziandola, no, quello che si potrebbe fare è che una parte di questa realizzazione, di questo programma pluriennale messo in mano a un organo parlamentare con l'opposizione coinvolta, anzi alla guida di questo organo per le ragioni che ha detto Carlo Bastasini, per una parte si può realizzare come con l'ESM in via di trasformazione, come abbiamo detto, che rileva una quota dei, attualmente sono più di 300 miliardi dei titoli del debito pubblico italiano in pancia alla BCE grazie alle politiche del QE di questi anni, li assume in cambio del fatto che l'Italia a garanzia del fatto che siano non parcheggiati ma siano poi volti ad abbattimento del debito, segrega in un fondo ad hoc garanzie reali a fronte di quei titoli, cioè mettendo, per così dire, in maniera formale e sostanziale che quella quota è una parte della quota che varrà andrà ad abbattimento del debito. E beh, è così, ho capito bene, Carlo? Hai capito bene, naturalmente, sì. Ecco, capite che quindi significa un impegno istituzionale di corresponsabilità. Poi negli interventi di anno in anno sul conto economico e sugli investimenti di anno in anno della spesa pubblica i partiti e le coalizioni divergono, ma intanto danno una garanzia a tutti noi contribuenti in Italia e ai paesi europei che siamo consapevoli del fatto che è nostro interesse diminuire il debito. Secondo, lo facciamo con una corresponsabilizzazione istituzionale. Terzo, andiamo al tavolo europeo, non a dire vabbè, siate solidali tedeschi. No, noi vi proponiamo un meccanismo in cui a fronte del nostro impegno chiediamo che ci sia una compartecipazione europea, ma noi vi diamo le garanzie perché questo sviluppo, che è un primo passo verso la mutualizzazione, è attualmente solo un primo passo proposto per l'abbattimento della quota del nostro debito, per renderla più graduale nel tempo, ma intanto con le quote già individuate in maniera significativa anno per anno, per arrivare al 100%. Allora, a me sembra una cosa di un straordinario interesse, perché primo dà un'idea di responsabilità, secondo indica uno strumento, Carlo, che non appartiene a il novero di tante proposte che dicono no, basta, ci vuole la mutualizzazione, i tedeschi cambiano idea. I tedeschi per il momento non cambiano idea. Vedremo che governo nasce, ma mi pare difficile che cambino idea su questo. Guarda, io sono molto positivo sulla situazione tedesca, la vedo esattamente all'opposto di come è stata interpretata anche in Germania. Resta il fatto che dico in breve come la vedo, e cioè fin dall'inizio Angela Merkel aveva in programma una grande coalizione e le trattative nella coalizione giamaica sono state solo il necessario prendere tempo in attesa che all'interno del Partito Socialdemocratico si creasse una maggioranza parlamentare favorevole alla grande coalizione, cosa che si sta realizzando e ne vedremo i benefici. Resta il fatto che perfino nel documento Gabriel Macron, quello che diventerà un po' l'ispirazione della linea socialdemocratica, i socialdemocratici avranno un forte ruolo nel determinare la linea europea del prossimo governo, perfino lì c'è l'ipotesi di un meccanismo automatico di ristrutturazione del debito sovrano. Esattamente, e si tratta di collegarci direttamente a quello. Ecco, cioè, secondo me è una cosa molto realistica nel nostro interesse, senza rischi di farci additare dopo le elezioni, quando io ci scommetto quello che volete, cari ascoltatori, non ci sarà una maggioranza coesa in Italia, il Quirinale si dovrà inventare e vedremo le forze politiche, i diversi poli con che responsabilità nazionale affronteranno i problemi. E con un'impostazione di questo tipo ci mette non solo al riparo, ci mette al tavolo diretto delle trattative europee dei grandi paesi insieme a Francia e Germania, con una proposta concreta in cui offriamo responsabilità nazionale in cambio però di un impegno e in cambio di una realizzazione cooperativa di un pezzo del nostro impegno. A me sembra una roba che ci metterei la firma, però questo ovviamente non è solo perché stimo Carlo Bastasini, perché apprezzo il fatto che persone preparate come Carlo si pongano il problema di dare contributi tra virgolette razionali, esperibili senza esporre rischi ma abbattendoli, e completamente figli di una lettura realistica dell'Italia. Cioè Carlo Bastasini non mi sta dicendo cediamo 300 miliardi di debito pubblico, di patrimonio pubblico immobiliare, sta dicendo è ovvio, bisogna essere realisti, però bisogna porselo il problema, ed è uno scambio tra fiducia richiesta e garanzie date per costruire insieme un percorso europeo, intanto in cui si fa un passo avanti verso una direzione che è quella del rafforzamento di strumenti comuni per affrontare le divergenze e le asimmetrie all'interno dell'Europa. Ecco, questo è il modo in cui lo vedo io. Allora, iniziamo con il primo ospite per vedere che osservazioni fa su questa proposta. Ed è Natale D'Amico, appunto, ex senatore, l'ho già detto, sottosegretario al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Finanze, in anni non troppo lontani, ma molto è cambiato da allora, tra il 98 e il 2001. Grazie di essere con noi, Natale. Tu che dici? No, innanzitutto io apprezzo molto la proposta per tre caratteristiche che ha. La prima, prende atto che la credibilità delle regole europee è crollata. Non sono state mai rispettate quelle sul debito, praticamente negli ultimi anni moltissimi paesi non hanno rispettato neanche quelle sul deficit. Secondo, che nessuno può immaginare di fare discorsi su mutualizzazioni del debito, io aggiungo neanche probabilmente su assicurazione comune dei depositi, se non si recupera una credibilità sulle regole europee di bilancio. Terzo, prova ad evitare questa cosa di cui tanti con troppa leggerezza parlano, che va sotto il nome di default ordinato. Io temo che il default non sarebbe ordinato. Sì, temo anch'io. E quindi credo che sia, come dire, uno sforzo generoso e molto utile. Dopodiché ho alcune obiezioni nel merito, diciamo. Allora aspetta, adesso andiamo a un'interruzione con un po' di pubblicità e vedere cosa succede in borsa, e poi ripartiamo dalle tue obiezioni nel merito e si aggiungerà poi anche il professor Marattina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati con il studio in diretta, la versione di Oscar. Argomento, una proposta per mettere responsabilmente al centro del dibattito pubblico, dell'accordo politico, delle parti che vanno alle elezioni e contrasteranno duramente tra loro, ma riconoscano che l'abbattimento del debito, la sua riduzione almeno verso il 100% è un interesse dell'Italia. Due, lo facciano con assunzione di responsabilità, magari, proposta numero uno, con un meccanismo di un organo parlamentare che coinvolga l'opposizione, lasciando addirittura la guida all'opposizione, e nell'elaborazione di questo progetto, che deve essere significativo rispetto al 132 da cui partiamo in termini pluriennali, con l'obiettivo di arrivare al 100, terzo, coinvolga anche con una proposta di assunzione di responsabilità nostra i partner europei nel dire. Il DSM, l'ASM, il Fondo Salva Stati, coopera con l'assunzione di una parte della realizzazione di questo programma attraverso quote dei 300 miliardi di titoli pubblici oggi in pancia alla BCE, a cui però l'Italia affianca garanzie reali segregate, cioè volte a garantire che poi andranno ad abbattimento del debito, e questo rende ancora più credibile sia l'obiettivo che il suo percorso spalmato in termini pluriennali. Carlo Bastasini è con noi, e Natale D'Amico, ex senatore e sottosegretario, ha detto in termini generali io lo apprezzo, ed era arrivato a dirci, anche se poi naturalmente ho delle osservazioni tecniche. Ripartiamo di qui, Natale D'Amico. Eccoci. Questo finanziamento dell'ISM, il finanziamento sarebbe pari alla differenza fra quanto è necessario per rispettare la regola sul debito e quanto è sufficiente per rispettare la regola sul deficit. Quel finanziamento a me pare che sarebbe comunque debito. In più avrebbe una caratteristica un po' pericolosa: una parte del patrimonio pubblico verrebbe messo esplicitamente a garanzia di questa parte del debito. E beh, allora sarebbe meno garantito il resto del debito pubblico. Io credo che potrebbero esserci ripercussioni sul debito pubblico. A me pare però, ecco, che guardiamo all'esperienza italiana, forse conosciamo meglio, quali sono stati gli episodi di aggiustamento della finanza pubblica italiana? Sono stati nel 92? Sì. Prima dell'ingresso nell'euro, nel 95 diciamo, e poi nel 2011. Due determinati dai mercati, dalla forte pressione dei mercati, il 92 e 2011. E 2011. Il 96 determinato dal fatto che tutti sapevamo che se non fossimo entrati la pressione dei mercati sarebbe stata esplosiva. Esatto. A me pare di poter dire che noi abbiamo un patrimonio, cioè i mercati sono in grado di reggimentare la politica rispetto alla propensione innata alla politica a fare troppo deficit e troppo debito. Io proverei a rafforzare la capacità dei mercati di fare questa azione di supervisione, di controllo sulla politica. Come per esempio prevedendo, evitando di, come dire, spingere i mercati a finanziarlo troppo questo debito pubblico. Faccio alcuni esempi. Ci sono regole che spingono le banche a comprare titoli del debito pubblico. Sono più di 300 miliardi. Esatto. E io forse tratterei i titoli del debito pubblico come trattiamo gli altri titoli. Ci sono regole fiscali, cioè lei si vuole proprio esporre all'accusa di essere un traditore della patria, come addirittura, dicono. Addirittura molti usano termini così. Aggiungo un'altra cosa: noi abbiamo una regola fiscale che dice che se compri titoli di Stato ti tratto meglio dal punto di vista fiscale che se compri altri titoli. Ci sono una serie di regole che distorcono il mercato per cercare di ridurre la pressione che il mercato è in grado di esercitare sulla politica. Io, visto che le regole europee, come dice il professor Bastianini, sono state travolte, aggiungo che noi abbiamo messo nel 2012 una regola in costituzione di pareggio. L'abbiamo mai rispettata da allora? Mai. Abbiamo messo il cartello, oggi non si rispetta, domani sì. Da allora andiamo avanti col cartello. Però io devo dire la verità, che apprezzo anche alcune di queste sue osservazioni. Io leverei persino la diversa aliquota a favore sui redditi del capitale, che naturalmente favorisce i titoli del debito pubblico rispetto agli altri. Ne farei una convergente su tutti i cespiti e una sola di aliquota sul reddito, si figuri un po'. Allora, come avete visto, sono delle obiezioni, ma ancora più rigorose. La prima, su questa poi chiederò a Carlo Bastasini di rispondere, alla fine, cioè, siamo sicuri che questa segregazione di quote crescenti del patrimonio pubblico a garanzia delle quote di titoli del debito pubblico che assume l'ISM non abbiano poi dei corrispettivi immediate traduzioni di più spread sul resto del titolo del debito pubblico italiano? Questo Carlo Bastasini poi risponde alla fine. Intanto ci ha raggiunto il professor Marattin, che insegna all'Università di Bologna ed è consigliere economico della Presidenza del Consiglio. Anche lui inizia con la prima domanda che ho fatto a Natale D'Amico. Che impressione ha, intanto, in termini generali, di questa proposta di Carlo Bastasini, professore? Mi è piaciuto il tentativo di spostare in parte il focus sul debito, perché vede, prima si diceva sono state travolte le regole europee. È vero, il patto di stabilità è stato violato 168 volte e nessuna sanzione è mai stata erogata. Esatto. Quindi per definizione già questo basta. Non è molto credibile. Noi non siamo molto credibili, ma il patto di stabilità e crescita nemmeno. Esatto. Poi io, come lei sa, sono molto critico nei confronti di regole basate sul PIL potenziale, perché ritengo che una cosa seria come le regole fiscali non possa riposare su calcoli così poco robusti come quelli del PIL potenziale. Quindi io dico, da un po' di tempo chiediamoci, partiamo da zero, qual è la fonte di esternalità all'interno dell'unione monetaria? È l'accumulazione di debito. Già all'inizio si fece la regola sul deficit per poter meglio controllare il debito come strumento per il debito, ma alla fine la fonte di esternalità negative è il debito. E quindi io sono convinto che bisogna apparecchiare un tavolo nei prossimi 2-3 anni, non di più, in Europa, in cui ci sono varie portate, comprese quella della fine del rischio zero dei titoli del debito pubblico, ma altre portate devono essere: rifacciamo da capo le regole fiscali, non necessariamente per farle più lasche, eh. Io sono uno a cui piacciono regole anche dure e soprattutto con sanzioni. No, ma per farle magari che funzionino, perché funzioni, così sono credibili. Le provo a dire come potrebbe essere fatta, secondo me. Allora, una regola sul debito. Gli step sono sulla riduzione del rapporto debito-PIL. Sono step che dipendono dalla crescita nominale, perché è evidente che se buttiamo via le regole aggiustate per il ciclo, non possiamo buttare via pure il fatto che quando l'economia cresce poco è più difficile ridurre, consolidare la finanza pubblica, quando cresce la crescita nominale è più alta è più facile. Quindi facciamo degli step di riduzione che sono funzione della crescita nominale passata. Smettiamola con la logica annuale, perché in un anno non si fa nulla. Abbiamo piani triennali di riduzione del debito e mettiamo delle sanzioni vere. Ce ne inventiamo una: i fondi strutturali. Perché non possiamo essere liberi, se davvero azzeriamo tutto e ripartiamo da capo, di dire che se un paese non rispetta lo step triennale, o comunque insomma, diciamo, il cammino triennale di riduzione degli step del rapporto debito pubblico, i quali a sua volta sono fissati a seconda della crescita nominale, perché ripeto, in recessione non è sano, perde l'accesso, vengono congelati quello che è i fondi strutturali. Ora, su questa tavola qui, se mettiamo un piatto del genere, poi mettiamo il piatto della mutualizzazione del debito, mettiamo il piatto della fine del rischio zero, se vogliamo allargare la tavola mettiamo il piatto dell'unione bancaria, e quindi anche lì c'è un paio di portate da scambiare, per intenderci, certo, perché si tratta di compromessi politici. Ma cominciamo a farlo veramente. Nella proposta di Bastanini ho visto che lui spiega anche molto chiaramente che limiti ha una regola sul debito, perché il debito non è interamente controllabile, mentre il deficit sì, parte di esso, perlomeno quello primario, il debito no. Però alla fine la fonte dell'esternalità in unione monetaria è il debito in rapporto al PIL. Quindi perché non mettere quello come target di una regola fiscale? Poi lo Stato si arrangia nel come lo vuole rispettare. Ricordiamoci, e chiudo, che noi ci lamentiamo del fatto che il debito italiano è stabile e non si è ridotto, ma se l'inflazione fosse al 2%, se facciamo i conti... No, è chiaro, questo darebbe una mano, perché cambierebbe il denominatore, questo sono il primo a dirlo. Detto questo, le faccio una domanda aggiuntiva rispetto alle sue osservazioni. Io dico subito che sposerei immediatamente anche la proposta di dire cambiamo le regole con una, tra virgolette, sanzione, che è quella: chi non rispetta di triennio in triennio ha un accesso limitato a quote crescenti a seconda di quanto se ne adempiente dei fondi strutturali europei. Ma detto questo, le faccio una domanda. Lei ha visto nella proposta che uno degli aspetti è quello di incardinare una responsabilità bipartisan con un coinvolgimento anche dell'opposizione. Riparto da chiedergli questo e la risposta però me la dà dopo la breve interruzione in cui stiamo dando notizie su traffico. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati. Avete sentito l'osservazione di Natale D'Amico e del professor Luigi Marattin alla proposta di Carlo Bastasin. Chiedevo a Marattin, questo glielo chiedo anche per la sua milizia civile e politica, cosa penserebbe dell'aspetto, tra virgolette, più squisitamente politico, cioè quello del coinvolgimento diretto di maggioranze e opposizioni pro tempore di fronte al Parlamento, che significherebbe anche di fronte all'Europa, per dare ancora più solidità all'impegno pluriennale. Lei che dice, Marattin? Ma le dico la verità, Oscar, sono molto sincero. Io credo che questo non sia un paese la cui classe politica nella sua interezza internalizzi veramente l'esistenza del vincolo di bilancio pubblico. Quindi sono scettico, non credo che allargando la base parlamentare si rafforzi questa internalizzazione. Allora che fai? Vuoi emigrare in Germania? Può darsi, però evitando l'altra opzione, che io spero invece, e lavoro per questo, che si costruisca un'offerta politica io dico all'interno della mia parte politica, in grado di dire: guardate ragazzi, perché non è un paese a cui piace il vincolo di bilancio, diciamoci la verità, perché non ci possiamo dire la verità. Quindi voi lo dite da... I fatti le danno più che ragione, non è un'opinione. In questa situazione non c'è alcun vantaggio, credo, ad allargare lo spettro parlamentare, perché si rischia soltanto di indebolire ulteriormente il vincolo di bilancio. Ecco. Io lavoro affinché nel Partito Democratico, per quanto riguarda, cresca una classe politica in grado di perseguire la difesa dei più deboli tramite l'equilibrio dei conti pubblici, perché essere di sinistra vuol dire difendere i più deboli. Non c'è nessuno di più debole di chi non è ancora nato, e fare troppo debito significa danneggiare chi non è ancora nato. Quanto è vero, speriamo che diventi maggioritario questa impostazione in tutte le parti, perché io vedo un po' cose diverse. Però do atto, abbiamo sempre dato atto al professor Marattini e a chi la pensa come lui nella sua parte politica di battersi per questo. Nessuno potrebbe dire che non è vero. Chiedo a Carlo Bastasini, a questo punto, sentite le osservazioni da due punti di vista e culture diverse, come è giusto, alla sua proposta. Che dici, Carlo? Ma intanto grazie a te e ai tuoi interlocutori, perché qualsiasi voce riporti al centro del discorso pubblico italiano il tema del debito va incoraggiata. Ogni voce che fa proposte, quindi ogni proposta è benvenuta, ogni proposta deve fare attenzione a alcune cose, essenzialmente costruire un buon sistema di incentivi e di sanzioni, e in questo caso in particolare vanno intrecciati incentivi interni politici, per esempio la ragione della commissione bipartisan da far guidare all'opposizione è che mette un contrasto all'interno del Parlamento tra opposizione e governo, che non c'è se ci concentriamo sul deficit, ma c'è invece evidente l'interesse dell'opposizione, anche se non ha a cuore il vincolo di bilancio, ha a cuore di trovare buone condizioni quando governerà, e questo è determinato dal livello del debito. Quindi attenzione a disegnare bene incentivi e credibilità. Quindi se il processo è credibile, la riduzione del debito garantita dall'ISM e garantita a sua volta dallo Stato italiano, allora non ci sarà nessun dubbio sull'assenza di default, quindi non ci sarà quel problema che è stato evocato. Però certamente grazie di suggerire qualsiasi cosa, sono stati fatti volare molti piatti, certo. Questi piatti volanti bisogna prendere quelli che hanno molta cura al disegno politico della situazione, che non è interno solamente, ma deve essere coerente con l'interno, con la domanda di credibilità che viene chiesta in questo momento a Berlino e a Parigi. Allora, io ringrazio Carlo Bastasini e faccio a questo punto la stessa domanda ai nostri due ospiti da due punti di vista diversi, perché parliamoci chiaro, l'improbabilità di una maggioranza coesa, vista la legge elettorale, i sondaggi, quello che ci dicono e così via, è attualmente elevata. Allora, di fronte al rischio di tornare a rappresentare un problema, la storia non si ripete, non sto dicendo tale quale 2011, però di fronte all'instabilità, chiedo prima a Luigi Marattin e poi a Natale D'Amico, qual è la prospettiva che nella vostra testa potrebbe rappresentare il male minore come formula, se non c'è una maggioranza coesa? Cosa bisogna tornare? Perché io non vedo la probabilità elevata, e ho finito la domanda, che nessuna delle tre parti politiche sia favorevole a votare un governo tecnico. E quindi a quel punto, Marattin, che si fa? Guardi, le dico il male peggiore. Sì. Il male peggiore sarebbe che andasse in onda il film governo a tempo per rifare la legge elettorale e poi si torna alle urne. Io vorrei evitare quello, mi accontenterei di quello, perché quello sì che sarebbe... Quella è una miccia. Cioè il giorno della marmotta, il film con Billy Murray di qualche anno fa, che ricomincia sempre tutto male. Cioè mi darebbe l'idea che in questo paese, alla fine dei conti, con un ciclo decennale o quindicennale, ricomincia sempre tutto da capo. Sì. Mi accontenterei di evitare quello. Quindi il male minore non lo so, ma quello mi reputo male. Soddisfatto almeno di che sia possibile evitare quello. Mi reputerei soddisfatto. Che dice Natale D'Amico alla stessa domanda? Ma dico che ritorno al nuovo articolo 81 della Costituzione. Per evitare che fosse troppo facile sfondare il vincolo di bilancio, abbiamo previsto che ci fosse necessaria una maggioranza rafforzata per superarlo. Sono state le votazioni più facili di questa legislatura. Tutto il Parlamento era d'accordo a sfondare i vincoli di bilancio. Bastasin dice: ma se fosse il debito, forse no, non lo so. Però mi pare che, insomma, l'orientamento, come si diceva, non è molto, molto severo. No, Marattin, in questo ha perfettamente ragione. Perfettamente ragione. A me pare che ha maggior ragione, però, come dire, incamiciare i prossimi governi, i prossimi parlamenti, in una serie di vincoli che a questo punto non possono essere che una maggiore pressione del mercato per evitare che si faccia troppo deficit e troppo debito, non abbia alternativa. Io sono favorevole a che i prossimi governi, quali che siano, tecnici, transitori, di minoranza, eccetera, siano incamiciati in un sistema di forze. Il sistema di forze dato dalle regole attuali, come evidente, non funziona. Se ci fossero appunto una maggiore pressione dei mercati via, per esempio, le misure alle quali accennavo prima, secondo me potremmo stare più tranquilli, anche le future generazioni starebbero più tranquilli se i governi, qualunque si siano nella prossima legislatura, fossero, come dire, in qualche modo costretti. Natale, tu lo sai cosa succede se l'Europa inizia ad adottare un peso diverso per il rischio sovrano dei titoli di debito pubblico in mezzo alle banche? Che l'intero sistema della informazione, che ha problemi nei confronti dell'esposizione bancaria, insorge prima della politica dicendo che si tratta del quarto Reich che ci sta invadendo. Questo, Natale, lo sai che succede quello? Io mi troverei con ogni probabilità buttato fuori in 5 minuti a dire il contrario. Però questo solo per dire che le forze del mercato in Italia regalano maree di voti a chi a quel punto chiede l'uscita dell'euro, e io quello non ci voglio essere. Per questo spero che abbia ragione Maratin e vediamo. Intanto grazie a Carlo Bastasini, Natale D'Amico, Luigi Maratin, continuate su Radio 24, appuntamento con me e Luca Trese domani 24 mattina alle 8:15 e poi il pomeriggio, come tutti i pomeriggi, alle 16 la versione di Oscar.